ma certe cose non le posso dire. D'accordo, prendo qualche cosa, no, non posso accettare. Speriamo vada via la luce, così guardo nel buio. Ho voglia di vedere amici, dai, restiamo da soli. Ma ricorda, in ognuno di noi c'è un bambino con la sua stella che ritorna a giocare nei prati, e sento vicino al mare la tua mano. Incerto di un gabbiano col suo occhio deciso, e ho voglia di dirti ti amo, di guardarti allo specchio, padrona di sapere tutto e non credere a niente. Ma ti incontro un raggio di sole, il tuo sorriso, e sei una stella colorata sul foglio di scuola. Quando parli tu mi hai già scoperto, fingendo di trovarmi sciolto, mi hai gelato sbuffando. E non capisco perché vinci, ma ti piace imbrogliare, tirare tutte le mie carte ed io resto a guardare. Ma ti amo e mi piace restare nel tuo gioco, così nel mazzo. Spero sia io nel solitario, nel tuo rispetto e nel tuo respiro, io nel tuo guardare lontano. Spero sia io quella moneta che tieni in tasca e non spendi mai, la lancetta in cui guardi le ore. Spero sia io. Sento